Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: le borse sono moderatamente positive, soprattutto Milano è la più modesta come rialzo, più 0,2, Parigi più 0,90, come Francoforte, l'1,2% lo guadagna Londra, lo 0,35% l'America, l'euro a quota 1,35. Di cosa ci occuperemo oggi quanto a cronaca della giornata economico-finanziaria? Beh, partiremo con il via libera della Commissione europea alla coltivazione in Europa della patata transgenica per uso industriale. Allora, su questo in realtà il tema è serissimo, perché già lo scorso 19 gennaio una sentenza della Corte di Stato italiana, chiaramente, accogliendo le tesi di un agricoltore friulano, ha imposto al Ministero dell'Agricoltura di avviare le procedure per autorizzare a seminare mais transgenico, quindi OGM, e già messo, quelli già ammessi dall'Unione Europea. Il ministro Zaia ha detto che farà opposizione, che bloccherà la decisione. Gli agricoltori che sono a favore, tra cui Confagricoltura, Futura Agra, hanno detto che chiederanno i danni già quantificati in 200 milioni di euro. Insomma, da una parte ci sono alcuni gruppi di agricoltori, soprattutto quelli rappresentati da Confagricoltura, che sostengono i benefici anche economici, per cui un valore aggiunto di circa 280 milioni di euro l'anno, un aumento delle rese e quant'altro, dall'altro è un risparmio anche sui fitofarmaci, dall'altro c'è il ministro e altre associazioni di agricoltori che non ne vogliono sapere di avere i prodotti geneticamente modificati, gli OGM, i prodotti transgenici in Italia. E dopo il mais, a questo punto, sarà la volta anche della patata transgenica. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo di questo, ma anche del danno economico, mi rendo conto che sia l'aspetto non prevalente, di quello che è successo nel fiume Lambro e poi nel Po. Perché? Perché abbiamo scoperto, e lo ascolteremo dopo, che a fronte di un danno che arriverà a decine di milioni di euro, solo per il depuratore di Monza bloccato per tre quarti dall'invasione di petrolio che ne ha bloccato i filtri, il danno è calcolato in 2 milioni e 600 mila euro. Dicevo, a fronte di questo danno, in realtà con un sistema molto molto semplice, già usato in molti depuratori o siti a rischio, siti che utilizzano materiali rischiosi, tossici, idrocarburi, ma non solo, esistono sistemi di controllo. Con l'investimento complessivo sarebbe stato intorno ai 15-20 mila euro. E quindi, insomma, è facilissimo fare i conti. Parleremo anche di questo, perché delle volte prevenire vuol dire anche investire qualche migliaio di euro per evitare poi o bloccare sul nascere atti dolosi criminali come questo. Poi le borse, il peggior titolo, dicevamo, in una giornata modestamente, moderatamente positiva, il peggior titolo è Luxottica, meno 4,7, poi CIR meno 2%, Geox meno 1,5, i migliori sono Fiat più 3,5, Lottomatica più 2,7, Exor più 2,3, Fondiaria più 2,1, Mediobanca più 2%, Atlantia più 1,5, come ST Microelectronics e la Popolare di Milano. L'1,3% lo guadagna Buzzi Unicem, l'1,2% il Banco Popolare, l'1% Mediolanum e in pregilo ma anche Saipem. Altri temi che toccheremo, il rapporto dell'Agenzia delle Entrate, adesso vi daremo le notizie in breve, ne parleremo più estesamente nella seconda ora. La lotta all'evasione ha portato a un aumento delle entrate fiscali, la conferenza stampa oggi del direttore dell'Agenzia delle Entrate Befera proprio su questo tema, 9 miliardi di euro nel 2009 più 32% rispetto a un 2008 che già era stato un anno da record, con quasi 7 miliardi riportati nelle casse dell'erario, 712 mila controlli nel 2009. Questo tema della seconda ora, così come sempre nella seconda ora ci occuperemo di quanto uscito, le proposte arrivate anche dall'assemblea della UIL oggi, proposte arrivate dal segretario generale, soprattutto mi riferisco a Luigi Angeletti, in tema di occupazione, la denuncia a rischio oltre 200.000 posti di lavoro nel solo 2010, e anche altre notizie che riguarderanno appunto la proposta di aumentare l'assegno sulle pensioni. La presidente Confindustria Emma Marcegaglia ha detto Confindustria è assolutamente d'accordo è disponibile a collaborare su un'alleanza tra governo e parti sociali. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda, vedo già gli sms, come ha chiuso la Grecia, adesso daremo anche l'andamento della Grecia. La Grecia ha aperto bene questa mattina. Sugli OGM vedo già molta polemica, ma perché guardare sempre il lato economico delle cose? No, nessuno vuole guardare il lato economico e basta. Chi sostiene che gli OGM, cioè in questo caso mais e patata transgenici, debbono essere utilizzati anche in Italia, lo sostiene da un punto di vista economico. Noi ci limitiamo a riportare tutte le varie opzioni, ipotesi e punti di vista. L'euro, volete sapere l'euro, a quota 1,35,46. Il petrolio stabile, purtroppo intorno agli $80 al barile, a $79,37. E poi c'è, per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, la vicenda General Motors. Allora, le vendite a febbraio sono andate bene in America, più 11%, ma sotto le attese, ci si aspettava meno un 24%. Che cosa è successo oggi a General Motors? Beh, anche GM si appresta a richiamare, non ritirare per carità, 1.300.000 auto in Nord America per un problema al volante che avrebbe causato 14 incidenti stradali e il ferimento di una persona. E poi General Motors è pronta a investire 1.900.000.000 per quello che, di euro, sulla ristrutturazione della Opel contro i 600 milioni promessi fino ad ora. Lo ha annunciato con una nota la casa americana, che appunto ha detto di essere disponibile a aumentare, praticamente a triplicare il suo impegno complessivamente. Per diciamo ristrutturare la Opel serviranno, secondo le ultime stime, 3 miliardi e 300 milioni di euro. Allora, questa è una notizia abbastanza carina, a me fa impazzire, comunque la leggiamo. Goldman Sachs, cioè una banca che aveva ottenuto 17-20 miliardi di 10 miliardi di aiuti di Stato per essere salvata nel 2008, che l'anno scorso ha accantonato, ha messo da parte 16 miliardi di dollari da distribuire in bonus ai manager, 16 miliardi, e che per questo ha scatenato, diciamo, anche le ire della Casa Bianca, dell'opinione pubblica americana. La legge e le misure prese da Barack Obama sui bonus e sugli stipendi sono nati da questa decisione di Goldman Sachs, che, come ha fatto i primi utili nel 2009, terzo trimestre se non ricordo male, 3 miliardi e mezzo, ha subito deciso di premiare i suoi bravissimi manager. Ebbene, oggi, per quello fa impazzire questa notizia, la stessa Goldman Sachs dice: attenzione, tra i rischi finanziari che noi dobbiamo fronteggiare come colosso bancario c'è anche una cattiva pubblicità, e la cattiva pubblicità può avere un impatto negativo sulla nostra reputazione, sul morale e sulla performance dei nostri dipendenti, e questo può a sua volta incidere negativamente sulla nostra attività e sui nostri risultati. In tutto questo, quando Lloyd Blankfein, il numero uno di Goldman Sachs, uno che si è beccato decine di milioni di euro di dollari di bonus, è stato definito dalla rivista Rolling Stone come un enorme calamaro vampiro appiccicato sulla faccia dell'umanità, questo giudizio di Rolling Stones, sicuramente la cattiva pubblicità può creare un danno e anche essere un rischio per l'attività di Goldman Sachs. Suggeriamo modestamente che magari distribuire non 16 miliardi di dollari di bonus potrebbe aiutare Goldman Sachs a non avere cattiva pubblicità e quindi a non correre questo rischio. L'Italia, allora, l'inflazione nel mese di febbraio rallentata, il dato preliminare di oggi più 1,2% su base annua, cioè contro rispetto a un anno fa, siamo una variazione mese su mese, febbraio su gennaio dello 0,1%, a gennaio l'inflazione era l'1,3%, quindi continua a essere sotto controllo l'inflazione in Italia, anche se continua a essere un po' più alta della media europea, che oscilla intorno allo 0,8%. Nel frattempo si è venuto a sapere che sono state 136.000 le domande poste dalle piccole e medie imprese per avere la sospensione dei debiti, le domande fatte chiaramente alle banche, la moratoria sui debiti. 136.000 domande per un totale di 8 miliardi. ne sono state già accolte 100.000. Per, scusatemi, 100.000 per un totale di 8 miliardi, quindi complessivamente le 136.000 arriveranno a una cifra più alta. I tempi dell'istruttoria sono di circa 30 giorni. Dicevamo dell'allarme lanciato oggi nella relazione di apertura del 15° congresso nazionale a Roma della UIL. L'allarme lanciato oggi dal segretario generale della UIL, Luigi Angeletti. Nel 2010 c'è un rischio forte, altri 200.000 posti di lavoro potrebbero saltare. Sottolinea però Angeletti che nel 2009, grazie agli ammortizzatori sociali, che poi significano soprattutto cassa integrazione in deroga straordinaria e ordinaria, si sono evitati 400.000 licenziamenti. Alcuni studi da noi elaborati dimostrano che nel 2009, grazie al complesso degli ammortizzatori sociali che sono stati messi in campo, si sono evitati circa 400.000 licenziamenti. Ma per l'anno in corso sono ancora a rischio più di 200.000 posti di lavoro. Ecco perché noi chiediamo al Governo di proseguire nella politica sin qui realizzata e di mettere in campo tutte le risorse necessarie per governare le crisi aziendali ed evitare un disastro economico e sociale. Anche il sindacato ha un compito preciso: non limitarsi alla critica, ma sollecitare concretamente questi provvedimenti e costruire percorsi che ne agevino l'applicazione. Bisogna salvare l'occupazione, restituire dignità alle persone e offrire una speranza al Paese. Così Luigi Angeletti, ripeto, ne parleremo nella seconda ora del programma del congresso nazionale della UIL che si è aperto oggi a Roma, e anche della proposta, un'alleanza tra governo e le parti sociali, a cui appunto la presidente di Confindustria Marcegaglia ha detto di essere pronta a collaborare. Primo tema di oggi, gli OGM. Vedo già molte domande al 349, anche commenti, anche critiche al 349-238-6666. Ribadiamo e ripetiamo: oggi la Commissione Europea ha dato via libera alla coltivazione in Europa della patata transgenica Amflora per uso industriale. Con questo via libera sono 35 gli organismi geneticamente modificati autorizzati in Europa: 19 mais, 6 di cotone, 3 di colza, 3 di soia, 1 di barbabietola, 1 di patata appunto, e un microorganismo. E cade quindi una moratoria dopo 12 anni per coltivare la patata transgenica geneticamente modificata. Ora, nel frattempo, come ricordavamo, lo scorso 19 gennaio la sentenza della Corte di Stato in Italia ha dato via libera, anzi ha imposto al Ministero dell'Agricoltura di avviare le procedure che portano all'autorizzazione per seminare mais OGM già ammesso dall'Unione Europea. Si tratta del MON 810 dell'americana Monsanto, che è il leader mondiale al mondo. Leader mondiale al mondo è chiaramente un refuso. Quanto vale il mercato delle sementi geneticamente modificate? Circa 8 miliardi e mezzo, quest'anno si stima che arriverà a 9 miliardi. Il 9% delle superfici al mondo sono coltivate con OGM. I maggiori produttori sono Stati Uniti, 62 milioni di ettari, Argentina 21 milioni, Brasile 15, India e Canada 7 milioni e mezzo, la Cina con 4 milioni. In Europa invece nel 2009 c'è stato un meno 12%, ma insomma il Ministero dell'Agricoltura è fermamente contrario al mais modificato e immagino anche alla patata geneticamente modificata. Lo chiedo però, e lo ringrazio per averci raggiunto in collegamento, al Ministro dell'Agricoltura Luca Zaia. Buonasera. Buonasera dottor Barisoni e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Ministro, vediamo di capirci, la patata che oggi da oggi si potrà coltivare, insomma, è l'Amflora modificata in modo ad avere un maggior contenuto di amido, e ha avuto una lunga controversia questa autorizzazione con l'ente, con l'autorità europea per la sicurezza alimentare, quella che ha sede a Parma, e chiaramente per motivi industriali, perché l'amido poi si usa anche per motivi industriali. Voglio fare l'avvocato del diavolo, cioè le dico i motivi per cui la Confagricoltura per esempio, ma anche Assobiotech e Futuragra, sono a favore degli organismi geneticamente modificati. Nel caso del mais, tra l'altro, Futuragra ha detto che se lei continuerà a opporsi chiederanno i danni per già quantificati in 200 milioni di euro. dice la Confagricoltura, insomma, il valore aggiunto è di circa 280 milioni di euro. Aumentano le rese, più 30% nel caso del mais. Si risparmia sui fitofarmaci, 120, che sono appunto, appunto elementi chimici, 120 euro per ettaro, e un aumento del reddito di circa 266 euro per ettaro, moltiplicato per un milione di ettari sarebbero 280 milioni di euro appunto in più di guadagno. Lei cosa risponde? Guardi, rispondo con serenità che dove si coltivano gli OGM gli agricoltori non guadagnano di più. Se lei andasse a sentire le lamentele degli agricoltori degli Stati Uniti, sono le stesse degli agricoltori europei e italiani rispetto ai cereali a pieno campo. Il fatto poi che si dicano che sono totalmente innocui è una bugia, perché non più tardi di un anno fa Isle Aigner, che è il ministro dell'agricoltura tedesco, ha dovuto sospendere la coltivazione di un mais a pieno campo perché dava problemi nella sperimentazione sulle cavie del laboratorio. Poi diciamolo fino in fondo che il mondo scientifico è spaccato a metà sulla nocività o la non nocività di questi prodotti. Ed infine vorrei ricordare che consegnare gli OGM all'agricoltura vuol dire consegnare l'agricoltura alle multinazionali. Un paese come l'Italia, che ha 4.500 prodotti tipici, che si vanta e sfonda i mercati internazionali per i prodotti fortemente identitari che ha, perché quando uno compra un prodotto, una persona, un consumatore compra un prodotto dell'agricoltura italiana, compra l'identità e il territorio, mozzarella di bufala, DOP, il parmigiano reggiano, il grana padano, il prosciutto di San Daniele, il pomodoro pachino, e potremmo andare avanti all'infinito, sono 4.500. Non si capisce perché dovremmo aprire le porte agli OGM, ma non è una questione di sì o no, diciamo che il 75% degli italiani la pensa come me. Allora, un'obiezione che leggo al 349-238-666, poi torniamo sul tema invece degli OGM. Lei dice, insomma, in sostanza fare entrare gli OGM in Italia vuol dire consegnarsi ai semi della Monsanto, dei grandi colossi, delle multinazionali, ma anche l'accordo con McItaly, anche McDonald's è una grande multinazionale, ce lo scrivono gli ascoltatori. Cioè, perché McDonald's sì e la Monsanto no? Ma perché semplicemente McDonald's ha rinunciato a uno spazio nei suoi punti vendita per dare ospitalità a un panino che è tutto dell'agricoltura italiana, perché ricordo che sono tutti prodotti tutelati dai nostri consorzi di tutela, un panino che la mamma e la nonna ti può fare a casa, perché questa è la verità, perché c'è pancetta alla valvenosta DOP, c'è parmigiano reggiano DOP, asiago DOP, olio extravergine d'oliva DOP di Montiblay, e potrei continuare, carne 100% italiana, per cui non ci vedo nulla di male, nel senso che questo panino dà lavoro ai nostri agricoltori, vendiamo circa 1.000 tonnellate di prodotto agricolo certificato di qualità, a meno che non mettiamo in discussione anche i consorzi di tutela, e questo controvalore è di circa 5 milioni di euro al mese. A me non sembra che sia paragonabile il fatto con quello degli OGM, cioè con le multinazionali noi stiamo comunque ragionando. Ricordo ad esempio che tutti i grandi gruppi di vendita, penso alla grande distribuzione, sono multinazionali che vendono il 70% del prodotto agricolo italiano, ma da qui a dire che dobbiamo utilizzare anche i loro semi ne passa molto. Quindi vabbè, sul McItaly la chiudiamo qui. Lei ci garantisce che questi prodotti, no, io mi sono sempre chiesto, ma dove troveranno tu questo formaggio, questa bresaola? Non è che poi... Ma guarda, io la ringrazio per questa domanda. La presenza della presentazione è avvenuta in presenza, scusi il bisticcio di parole, è venuta in presenza dei presidenti dei consorzi di tutela. Cioè, se noi mettiamo in dubbio questo, vuol dire che non crediamo più che esista un consorzio di tutela parmigiano-reggiano. Il presidente del consorzio di tutela parmigiano-reggiano ha pubblicamente ringraziato per questa iniziativa. No, lo so, perché già i maiali, già le mucche per la bresaola sappiamo tutti che non vengono dalla Valtellina, non c'è più una mucca in Valtellina, vengono da fuori, ma quello si può fare perché l'importante è che venga processato, come si dice, la bresaola in Valtellina. Prego. Mi perdoni, dobbiamo ricordare però che... Pronto? Un attimo di problemi col collegamento con il ministro Zai, adesso lo riprendiamo. Intanto io vi leggo, visto che vedo anche molte obiezioni all'ingresso di OGM, ma anche vedo alcune dichiarazioni a favore. Allora, volete sapere chi coltiva in Europa? Domanda assolutamente corretta. In Europa ci sono 6 paesi che coltivano mais geneticamente modificato, sono Spagna, Repubblica Ceca, Portogallo, Romania, Polonia e Slovacchia. Hanno decretato lo stop invece Germania, Francia, Austria, Ungheria, Lussemburgo e Grecia. Ministro, abbiamo di nuovo in collegamento, volevo concludere sulla bresaola, diciamo, sapendo già che le mucche non sono della Valtellina, ma da che modo, diciamo. Sì, ma fatto del disciplinare, però vorrei ricordare che i formaggi DOP, ad esempio italiani, Parmigiano Reggiano, Asiago DOP, Montaggio, mm-hmm. tutto quello che vi viene in mente sono 42 DOP, sono formaggi che si debbono ottenere con il 100% di latte italiano. Certo. Torniamo invece agli OGM, vedo che l'interesse è molto alto. Allora, le dico, cosa farà lei? Perché qui c'è una sentenza della Corte di Stato e gli agricoltori che vogliono coltivarli dicono noi abbiamo, siamo in un libero mercato, se c'è una sentenza vogliamo poter essere messi in grado di coltivarli, poi chi non li vuole coltivare non li coltivi. Stima appunto la Confagricoltura 280 milioni di euro di guadagno per un aumento della resa, diciamo della produttività, si spende meno in fitofarmaci e c'è un aumento del reddito. Dichiarano che sono già pronti a chiedere i danni da 200 milioni, lei cosa intende fare poi concretamente? Concretamente farò tutto quello che sarà possibile per dare innanzitutto risposta al Consiglio di Stato che ci dice non di avviare la coltivazione, perché anche questa è una bugia che è stata diffusa, ma ci dice di completare l'iter istruttorio rispetto alla coltivazione. Voglio anche ricordare che qui c'è una competenza esclusiva delle regioni che devono adottare un piano di coesistenza, significa, detto in soldoni, che se mio Veneto decide di non avere gli OGM deve non avere non è ancora suo, Zaia. No, dico mio Veneto perché sono cittadina del Veneto. No, anch'io, prego. E per cui lo possiamo dire io e lei, sì. Dico che se mio Veneto decide di non coltivare gli OGM deve avere garanzie dell'Emilia Romagna, del Friuli, del Trentino Alto Adige, della Lombardia, che il polline del mais OGM di quelle regioni non certo. vada a ibridare il mais non OGM della sì perché terra. Poi quello che succede è che insomma il vento c'è, è difficile bloccarlo, il polline vola e quindi tu magari dici che non sei di coesistenza. Esatto, dici che non sei OGM, hai magari una produzione dichiaratamente biologica e ti ritrovi poi nell'arco di qualche anno con le sementi completamente contaminate. Leggo un messaggio che mi fa sorridere, poi ho un'ultima domanda per lei. Scrive un ascoltatore: in un anno passato negli Stati Uniti mangiando cibo italiano a casa OGM ho preso 5 kg. Ma adesso non so se sia proprio se l'OGM faccia anche ingrassare, però non vorrei che si creassero anche un po' di falsi miti. Per quello che riguarda invece la, allora questo era il fronte mais, per quello che riguarda la patata, il fronte della patata per così dire, come la mettiamo Ministro? Perché qua Bruxelles ha dato via libera alla cultura della patata transgenica Amflora, e qui come guardi, facciamo a opporci? Guardi, da parte mia netta opposizione, perché è un fatto culturale, non culturale, culturale, perché se apriamo qualcosa poi dobbiamo aprire a tutto. Ma vorrei anche ricordare che il fronte italiano, giustamente descritto da lei, non è tutto unanime, cioè se da un lato c'è un'associazione di agricoltori che dice sì agli OGM, dall'altra c'è la più grande associazione di agricoltori che è la Coldiretti che dice no agli OGM. No, è vero, io ho parlato della Confagricoltura perché è quella delle tre certo. organizzazioni che difende a spada tratta. Giustamente difende la sua bandiera. E poi c'è anche da dire sul fronte degli agricoltori, dei consumatori, che cioè, non c'è assolutamente volontà di avere appunto questa coltivazione, per cui noi rispettiamo le idee degli altri e cerchiamo di difendere la volontà della maggioranza degli italiani. E a chi ribatte, leggo l'ultimo messaggio, che avere paura degli OGM, cioè creare questi timori sugli OGM, assomiglia in agricoltura a quello che si fa col nucleare, cioè si crea un terrore su uno strumento assolutamente utilizzato in altri paesi, cioè che è lo stesso tipo di mentalità che dice no al nucleare, dice no agli OGM, lei cosa ribatte? Ma guardi, dico semplicemente una cosa, che le cavie da laboratorio della Germania trattate con quel mais transgenico che già si coltivava avevano tumori epatici. Se qualcuno è disposto a dar da mangiare quel mais al suo bambino, alla sua figlioletta, al suo figlio, può benissimo fare la dichiarazione che lei mi ha appena letto. Vabbè, però la mettiamo sul terrore in questo modo. No, la mettiamo sulle prove di laboratorio, cioè Isla Heiner, la mia collega tedesca, si è trovata molto imbarazzata a dover chiudere tutta questa partita. Vabbè, no, ci mancherebbe. Poi parleremo però dopo marzo, parleremo di altri temi anche su questo. Intanto grazie, e ho capito che mi sembra che l'opposizione sul... Ministro, è ancora in collegamento? Sì, sono qui. Perché ho un'ultima domanda, visto che adesso parliamo invece del danno economico del fiume Lambro e scopriremo tra qualche istante che bastava investire 15-20 mila euro in strumenti che già usano molti impianti di trattamento di sostanze nocive o di depuratori, si chiama telecontrollo, hai sensori, scoprivi tutto, si accendevano le telecamere, insomma per 10-15 mila euro non investiti anche dal comune di Monza, la provincia, stiamo ragionando di decine di milioni di euro di danno. Mi può confermare che però il danno sull'agricoltura dovrebbe essere più contenuto perché non sono ancora iniziate l'irrigazione dei campi utilizzando l'acqua del fiume Po e anche del Lambro? Guardi, io questo non glielo voglio confermare, perché comunque c'è sempre il fenomeno della subsidenza e il fenomeno dell'imbibizione dei terreni. Non sappiamo che danni faranno queste molecole nocive, che comunque verranno portate in falda, entreranno, che so, per i piccoli corsi d'acqua, andranno ad alimentare un po' tutta l'irrigazione della primavera. Io spero che non ce ne siano di danni. Comunque chi fa queste cose deve essere punito severamente. Grazie, e poi vedremo. Grazie. Appunto, come si svilupperà anche il braccio di ferro con l'Unione Europea. E appunto, restando in tema del fiume Lambro e di quello che sta succedendo in questo momento, non nel fiume Lambro ma nel Po, perché sapete tutti che piega ha preso, ahimè, che piega hanno preso quei 5.000, in realtà si sono ridotti alla metà, tonnellate sversate nei fiumi. Tocchiamo un tema anche economico. Mi rendo conto che anche in questo caso la preoccupazione sia più ambientale che economica. Facciamo una cosa, però, visto che c'è il metodo e la pubblicità, andiamo in metodo e pubblicità e poi ne parliamo subito dopo. E poi i mercati, che hanno chiuso con un rialzo di 0,5 punto percentuale a Milano, di 1 punto percentuale nel resto d'Europa. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo prima di arrivare alla borsa, ripeto, 0,5 punto percentuale di rialzo a Milano, 1 punto percentuale nel resto di Europa. Scusate per la conduzione oggi, ma ho un bruttissimo mal di gola, so che non può fregare di meno, no? Rende più difficile la conduzione. Dicevamo del danno economico causato dal versamento di 5.000 tonnellate, si stima, siamo sempre sulle stime qui, di petrolio nel Lambro e poi nel Po. 2.600 sono state bloccate dal depuratore di Monza, che tra l'altro in questo modo è saltato per aria, nel senso che funziona adesso solo per il 25%, perché è stato messo fuori uso dal petrolio, non riesce più a trattare nelle sue vasche, le due vasche biologiche. Solo per questo danno al depuratore di Monza si stimano 2.600.000 euro. Più ci sono tutti gli altri danni che verranno stimati dopo, e i costi anche per la collettività, vigili del fuoco, polizia, vigili urbani e esercito intervenuti. Ancora, depuratore quello di Monza e quello di San Rocco di Monza, per cui si inizia a ragionare su cifre che vanno intorno almeno ai 10 milioni di euro. Il raffronto è importante, i costi poi vanno anche aggiunti per esempio quelle delle barriere. Le barriere per frenare le piccole quantità di liquido oleoso costano 250 euro l'una. Allora, quello che abbiamo scoperto, cioè incuriosito, è che pur di fronte a un atto doloso, cioè nessuno, non è un problema di messa in sicurezza, se uno va lì e compie un dolo e apre le vasche o i contenitori del petrolio, non ci puoi fare nulla come atto. Però sarebbe stato possibile prevenire o comunque bloccare, limitare al massimo questo danno con un investimento di poche decine di migliaia di euro. Ringrazio allora per averci raggiunto in collegamento il dottor Carlo Urbi, che è vicepresidente della Fondazione Enzo Urbi, che si occupa della diffusione della sicurezza nei siti a rischio, beni pubblici e privati, da Assisi alla Sacra Sindone e anche a tutti quei luoghi dove si trattano materie molto molto tossiche, contaminanti, rischiose, petrolio, ma non solo. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, dicevo che uno potrebbe pensare, vabbè, ma se c'è un atto doloso, poco potevi fare in termini di prevenzione, non si è rotta una vasca, non si è rotto un tubo, un oleodotto, una conduttura, qui qualcuno ha aperto la raffineria. In realtà non è così, perché? Perché oggi esistono dei sistemi che nascono magari per altri scopi, e sono quelli che noi vediamo spesso in televisione, no? Che i sistemi di videosorveglianza che permettono di identificare gli autori del crimine, ma in realtà questi sistemi possono e in alcuni casi sono già impiegati anche a tutela dell'ambiente. Ecco, andiamo più nel concreto. Che cosa vuol dire questo? Cioè che con un sistema di sicurezza e con che costi si sarebbe potuto prevenire o comunque limitare grandemente il danno? Sì, assolutamente sì, perché stiamo parlando di sistemi di videosorveglianza che permettono anche la trasmissione remota delle immagini, quindi anche in siti non presidiati costantemente noi possiamo avere una trasmissione a distanza delle immagini che non solo permettono di individuare immediatamente quello che sta succedendo, ma anche di registrare quindi gli eventi in funzione poi di quella che sarà l'attività investigativa. Pensiamo anche solo a quello che può essere l'effetto deterrente di un sistema esistente, o anche abbiamo visto purtroppo proprio in questo caso che si è subito creato un effetto emulazione, altri hanno versato sostanze inquinanti nell'Andro. Bene, se invece ci fosse stata la possibilità di identificare immediatamente gli autori di questo gesto, forse altri ci avrebbero pensato. Ecco, ma questi sistemi che appunto significano anche controllo a distanza, sono già utilizzati per discariche o per siti di materiali ad alto rischio? Assolutamente sì. La nostra fondazione, che tra l'altro organizza dei concorsi dove vengono premiate le migliori realizzazioni, proprio nell'ultima edizione del 2009 ha premiato due discariche in Liguria, dove il comune ha realizzato dei sistemi di videosorveglianza proprio a controllo dell'utilizzo che veniva fatto di queste discariche. Di che costi stiamo parlando per una raffineria come quella della Lombarda Petroli? Chiaramente i costi variano a seconda di quelle che sono le dimensioni e quelli che possono essere i problemi installativi. Diciamo che comunque stiamo parlando di costi, nel caso specifico potremmo fare una stima a grandi linee intorno ai 15-20 mila euro o poco di più. Complessivi? Sostanzialmente sì. Perché si lavora comunque in ambienti industriali dove la stesura dei cavi è abbastanza rapida e veloce. Chiaramente stiamo parlando quindi di costi che mostrano una grande sproporzione rispetto a quello che poi è stato invece il danno che si è verificato. Ecco, visto che la sproporzione è totale, cioè 15-20 mila euro per evitare un danno che arriverà a diversi milioni di euro, però le chiedo, chiaramente non si può immaginare che sia la stessa Lombarda Petroli, non abbiamo ancora capito chi è veramente è il responsabile. La notizia di oggi appunto che Giuseppe Tagliabue, amministratore delegato e responsabile delegato della Lombarda Petroli, è finito sotto inchiesta per la vicenda, sì. Non tanto per i reati ipotizzati, ma per la violazione della normativa di servizio e omessa dichiarazione, quindi una norma ambientale che consente di conservare nei depositi di stoccaggio non più di 2500 tonnellate di materiale inquinante. Ce n'erano chiaramente almeno il doppio. Sì. E questa, diciamo, è una costola del reato principale. Però, dico, non si può immaginare che fosse la Lombarda Petroli a mettersi questo sistema, evidentemente lì c'è qualcosa non funziona nel gruppo. Chi può essere? Un comune? Noi abbiamo dei casi dove sono stati i comuni che hanno provveduto a questo. È chiaro che qui stiamo parlando col senno di poi e quindi può sembrare facile che sarebbe stato sufficiente affrontare un costo del genere. Credo che sia più un problema di cultura, cioè non ci si pensa, non si ha conoscenza forse di quello che oggi permettono questi sistemi, e forse non si è neanche a conoscenza dei costi tutto sommato abbastanza contenuti. Ma un'ultima domanda che ho per lei: un sistema applicato, poniamo, dal comune di Monza alla Lombarda Petroli, che cosa avrebbe visto? Perché ci sono dei sensori che segnalano, oltre che vedere, segnalano anche la fuoriuscita, cioè è possibile anche dall'esterno? Certamente sì, cioè un sistema installato in maniera corretta con adeguati rivelatori di movimento piuttosto che di fuoriuscita, ci sono dei sensori che rilevano la fuoriuscita di liquido eccetera, avrebbero immediatamente attivato il sistema di telecamere e quindi tutti i relativi allarme e sistemi di videoregistrazione. È incredibile, perché appunto si tratta di sensori che registrano un versamento. Parla di sensori che a seguito di un evento, che può essere il movimento di una persona in un'area riservata, piuttosto che l'apertura di una certa apertura, un rubinetto, uno sportello o una certa valvola, permette di attivare in tempo reale tutto il sistema di videosorveglianza. E quindi anche di attivare anche l'operatore remoto e quindi fare in modo che si organizzi subito, certo, l'intervento. Per cui scatta un allarme perché il sensore ha rilevato o un liquido strano nell'acqua oppure dei movimenti strani in una zona dove... Scatta l'allarme e si attiva tutto il sistema di videoregistrazione, inizia la videoregistrazione e la trasmissione a una postazione remota, che può essere anche a diversi chilometri di distanza, delle immagini. Grazie, speriamo che ascoltando anche queste parole qualcuno, qualche comune, visto che non si può sempre chiedere al privato, il privato dovrebbe farlo di suo, se però non lo fa, poi il danno se lo becca la collettività, il comune, la provincia, la regione, come abbiamo appena visto. Speriamo che a qualcuno venga in mente anche appunto di attivare questi sistemi, visto che il costo è bassissimo, non stiamo chiaramente facendo pubblicità a nessuno, ma il costo è bassissimo, il danno invece è totale per quello che riguarda, con dei costi milionari per quello che riguarda poi, e stiamo parlando solo del costo economico, non lasciamo stare quello ambientale perché se no ci mettiamo a piangere. Grazie al vicepresidente della Fondazione Enzo Rubi, Carlo Rubi. Grazie a lei, buona serata. E adesso c'è il traffico, poi la borsa. Allora, la Fondazione Rubi premia, non produce, quindi non c'è nessun tipo di promozione. È una fondazione che premia la sicurezza sui luoghi, anche dei beni artistici, ma anche la protezione e la salvaguardia dei beni pubblici e privati. Va a premiare chi ha applicato tecnologie, come nel caso dei depuratori che ricordava il vicepresidente Rubi in Liguria. Alcuni dicono beh, ma è demagogico. No, attenzione, se i sensori fossero partiti subito probabilmente si sarebbe bloccato tutto un po' prima, lì è mancato qualunque tipo di avvertimento. Chiudiamo con il fatto che oggi il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, ha annunciato che la regione stanzierà 20 milioni di euro solo per il recupero dell'Ambro. Poi c'è la parte del Po, vedremo se, come dice Zaia, ci auguriamo che non ci siano danni all'agricoltura. Insomma, 20 milioni, arriveremo a decine di milioni con un costo di qualche decina di migliaia di euro, e lì ci devono pensare anche le province, i comuni e le regioni, non possono sperare nella buona volontà, diciamo, del singolo imprenditore. O si fa una legge oppure uno mette un controllo a distanza con i sensori. Traffico e poi la borsa, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, adesso la borsa, una risposta la devo a alcuni ascoltatori, a un ascoltatore che addirittura mi dà dell'asino perché non abbiamo capito che è un atto doloso, non un incidente. Le telecamere non avrebbero potuto fare niente sulle 5.000 tonnellate di petrolio finite nell'Ambro. Forse non ha seguito bene la trasmissione, perché abbiamo precisato che è un atto doloso, l'abbiamo detto tre volte che qui non si tratta di un incidente, di una mancata messa in sicurezza degli impianti, ma proprio per questo esistono i sistemi di controllo che valgono, ripeto, anche per le opere d'arte, oltre che per i siti con materiali ad alto rischio di inquinamento. Perché i sensori, devi sapere dove sono messi, e sono i sensori che segnalano qualcuno che si intromette, e anche staccare i sensori, da quello che abbiamo capito noi, fa scattare un allarme, per cui non è vero quello che dice. Con gli appositi sensori si sarebbe avuta notizia subito di quello che stava capitando, a partire proprio dalla manomissione dei depositi di stoccaggio della Lombarda Petroli. Comunque, la borsa, Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, dal petrolio, diciamo, alla borsa. Fiat più 3,90, l'automatica più 2,70, Exor più 2,6, Mediobanca più 2%, come fondiaria, l'1,80 lo guadagna Atlantia, Banca Popolare di Milano più 1,7, Stima Microelectronics più 1,5, Impregilo più 1,3, come Mediolanum e Mediaset, l'1% lo guadagna Buzzi Unice, ma è anche Banca Popolare, ma anche Saipem. Perde molto Luxottica, meno 4,40, e CIR meno 1,80%, Geox meno 1,5% percentuale. Ancora tra i titoli in assoluto, molto bene Pininfarina più 7%, PRL più 27,7%, Therapeutics più 11%, Danone più 5,60%, Indesit più 5%, Male Media Contact meno 6,70% e appunto Luxottica. Allora, partiamo dai titoli più grossi. Luxottica, oggi i conti, i dati economici, e Ansaldo, che ieri aveva beneficiato dei conti, anche oggi li ha diffusi, e invece resta ferma Ansaldo STS allo 0,14%. Sì, allora Luxottica ha perso il 4,46%, è stata penalizzata dalla presentazione dei conti 2009, infatti la quotata ha confermato l'outlook annunciato a ottobre, ha mostrato nel quarto trimestre un utile in calo dell'8,4%, ha proposto un incremento del 59% del dividendo. In realtà allora secondo gli analisti la decisione di alzare il dividendo era sostanzialmente attesa dal mercato, mentre gli esperti hanno considerato inferiore alle previsioni i margini che sono stati comunicati dal gruppo. Infatti Luxottica ha comunicato un EBITDA in calo del 20,3% nel quarto trimestre, 148,2 milioni. Per quanto riguarda Ansaldo, allora Ansaldo ha chiuso poi sopra la parità più 0,14, ma per la maggior parte della seduta ha avuto un andamento negativo. Ieri la società ha pubblicato i conti chiudendo la seduta in rialzo, ha mostrato infatti un utile netto in crescita del 13%, e ha proposto un dividendo in aumento del 15%, però a penalizzare il titolo sono state le stime sul flusso di cassa netto per il 2010, che è atteso infatti a 45-55 milioni rispetto ai 114 del 2009, e sulle attese per i nuovi ordini. Infatti, secondo quanto dichiarato oggi dall'amministratore delegato, i nuovi ordini si attesteranno fra 1,5-1,7 miliardi rispetto agli 1,7 miliardi. Quindi è più il futuro che il passato a, diciamo, non piacere al mercato su Ansaldo STS. Andiamo avanti ancora di Luxottica, che hai detto appunto i dati economici vedono l'utile in calo appunto a 314 milioni, meno 17%, il titolo perde molto. Bene oggi Fiat, il miglior titolo più 3,90% e anche l'automatica più 2,70%, Exor chiaramente segue Fiat più 2,6%, Mediobanca dicevamo più 2. Allora Fiat, l'automatica immagino siano le attese per i conti di domani, domani li commenteremo, Fiat e Mediobanca, perché qua c'è una dichiarazione anche di Vincent Bolloré dal Salone dell'Auto di Ginevra. Sì, allora Fiat ha beneficiato del buon andamento del comparto auto, che ha guadagnato il 2% circa a livello europeo, e dalle stime comunicate da Ford, che punta a terminare inutile il 2010 dopo il profitto realizzato nel 2009, e comunque sì, il mercato scommette su novità in arrivo dal Salone di Ginevra. Infatti oggi il direttore dei marchi Peugeot e Citroën non ha escluso la possibilità di una collaborazione con il lingotto estesa anche all'auto, anche se finora ha detto che non c'è ancora nulla di nuovo. Inoltre ieri sono stati comunicati i dati sulle immatricolazioni in Italia, che a febbraio hanno mostrato un vendite in aumento del 20,6% circa, con il lingotto che ha mostrato una crescita del 16,8%. Per quanto riguarda Mediobanca, allora Mediobanca ha beneficiato quindi ancora del buon andamento del comparto bancario, che oggi ha guadagnato 1,4%, mentre ieri aveva mostrato un andamento debole durante la seduta. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Bolloré, che è rappresentante dei soci francesi in Mediobanca, ha detto di stare riflettendo se è il caso di cambiare o meno presidente di Piazzetta Cucce. Bolloré si riferisce alle indiscrezioni che indicano appunto che vedono Cesare Geronzi verso la poltrona delle generali. E qualcun altro al posto di Cesare Geronzi in Mediobanca, tutti danno mi sembra ormai per acquisita invece l'uscita di Antoine Bernheim, anche immagino sono così per limiti età, mettiamola così. Ma la partita è tutta aperta, lo stesso Bolloré ha detto i giochi comunque si faranno a fine marzo, inizio aprile nel comitato nomine di Mediobanca. Grazie a Livia Zancaner, Radio Colli, Sole 24 Ore, il GR, poi i dati oggi diffusi dall'Agenzia delle Entrate sulla lotta all'evasione nel 2009, buoni dati, buoni, miglioramento anche rispetto al 2008, e la proposta di un accordo tra sindacati, Confindustria, datori di lavoro e governo per fronteggiare questa crisi avanza oggi dal segretario della UIL Luigi Angeletti, 349-238-6666. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E allora, dopo aver parlato delle notizie in breve, come sempre, del ritiro delle macchine della General Motors, 1.300.000 velivoli, di Goldman Sachs che non capisce come... automobili, velivoli, ancora no. Di Goldman Sachs che non capisce come mai o che teme questa cattiva pubblicità o che la cattiva pubblicità di cui gode potrebbe in qualche modo danneggiare anche l'efficienza del gruppo, dopo aver distribuito 16 miliardi di bonus ai suoi manager forse dovrebbe farsi qualche domanda in più, e aver parlato con il ministro Zaia del via libera della Commissione Europea alla patata transgenica, dopo che del Consiglio di Stato aveva dato via libera in Italia al mais transgenico già accettato in Europa, quello della Monsanto. Abbiamo chiuso con il caso, a mio avviso, incredibile, cioè i sistemi di sicurezza e di sensori per controllare anche da fuori che non accadano cose come quelle successe a Monza alla Lombarda Petroli, cioè 5.000 tonnellate di petrolio finite nell'ambro, hanno dei costi assolutamente modesti, ribadisco, i costi sono di qualche decina di migliaia di euro. Arriviamo ai temi più politici o di politica economica. Parliamo quindi delle proposte arrivate oggi dal Congresso Nazionale della UIL che si concluderà venerdì prossimo. Allora, intanto il dato su chi sta pagando il prezzo più alto di questa crisi, la fonte è Cerved Group, non è la UIL. I fallimenti sono stati boom nel 2009, c'è stato un 23% in più di fallimenti rispetto a un anno precedente. Le regioni con i tassi più alti sono state la Lombardia, 30% di fallimenti in più. Si è arrivati praticamente a 1900 fallimenti, poi il Piemonte 38% in più, Liguria 48% in più quanto fallimenti di imprese, Emilia Romagna 32% in più come le Marche, il Friuli Venezia Giulia 35% di fallimenti in più e il Veneto più basso della media 18% di fallimenti in più. E questo per quello che riguarda i fallimenti complessivi, cioè siamo passati da 7500 a 9255. E di questo ha parlato oggi il leader del UIL, Luigi Angeletti, parlando soprattutto di posti lavoro e quindi del rischio che nel 2010 si creino altri 200.000 disoccupati. Ha detto e ha riconosciuto Angeletti che nel 2009 si è evitato il rischio di 400.000 disoccupati in più grazie al sistema degli ammortizzatori sociali italiani, però appunto ha lanciato l'allarme occupazione su quest'anno e ha chiesto anche di non mettere mano a una riforma delle pensioni, ma di aumentare l'importo degli assegni pensionistici. Sentiamo questi due passaggi dal palco del congresso della UIL. Alcuni studi da noi elaborati dimostrano che nel 2009, grazie al complesso degli ammortizzatori sociali che sono stati messi in campo, si sono evitati circa 400.000 licenziamenti. Ma per l'anno in corso sono ancora a rischio più di 200.000 posti di lavoro. Ecco perché noi chiediamo al Governo di proseguire nella politica sin qui realizzata e di mettere in campo tutte le risorse necessarie per governare le crisi aziendali ed evitare un disastro economico e sociale. Anche il sindacato ha un compito preciso, non limitarsi alla critica, ma sollecitare concretamente questi provvedimenti e costruire percorsi che ne agevino l'applicazione. Bisogna salvare l'occupazione, restituire dignità alle persone e offrire una speranza al Paese. Molto spesso, per non dire sempre, ciclicamente in Italia riemerge la richiesta di fare una ennesima riforma del sistema previdenziale. È bene ricordare che appena l'anno scorso ne abbiamo realizzata una che collega l'allungamento dell'età pensionabile all'aumento delle aspettative di vita. Una riforma che rende sostenibile anche nel lungo periodo il nostro sistema previdenziale e che invece sta diventando insostenibile sul piano sociale. La vera riforma che dovremmo mettere in campo è proprio quella per aumentare le pensioni. Quindi primo dei temi affrontati oggi dal segretario UIL Angeletti riguarda il timore sull'occupazione, 200.000 posti a rischio nel 2010 e il no a una riforma delle pensioni, anzi aumentare l'assegno della pensione media. Su questo è intervenuta, anche su questo tema è intervenuta la Presidente Confindustria Marcegaglia, che ha detto attenzione, il 2010 è un anno così complicato che o arriveranno risposte concrete oppure obiettivamente sono a rischio altri posti di lavoro. Noi diciamo da tempo che anche il 2010 sarà un anno molto complicato, è per questo che a maggior ragione c'è bisogno di una politica economica, una politica industriale che supporti la crescita, le imprese e i lavoratori che sono le due parti produttive di questo paese. Quindi anche noi condividiamo che abbiamo davanti ancora mesi difficili, bisogna dare risposte concrete di investimento in ricerca, innovazione, infrastrutture e supporto attraverso gli ammortizzatori sociali a chi rischia di perdere posti di lavoro. Questo è un primo tema, altro tema appunto trattato che forse dal punto di vista politico è quello più forte è l'invito arrivato da Luigi Angeletti a mettere assieme governo, Confindustria, comunque datori di lavoro e sindacati, un'alleanza vera e propria tra governo e parti sociali, vista la gravità della crisi. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per gli sms, e poi parleremo anche della lotta all'evasione fiscale. Allora, dicevamo della proposta arrivata da Luigi Angeletti, sentiamola e poi sentiamo anche le reazioni, il ministro Sacconi, la presidente di Confindustria Macigaglia. Prima di tutto però il segretario della UIL Angeletti, l'alleanza tra governo e parti sociali per fronteggiare la crisi. Un paese come il nostro, per uscire dalle difficoltà in cui si trova, per uscire sul serio, ha bisogno di tutte le risorse che abbiamo, e quindi occorre una grande alleanza finalmente per far sì che questo paese ricominci a camminare, perché oggi purtroppo è in ginocchio. Così Luigi Angeletti a margine dell'assemblea della UIL, al microfono della nostra Alessandra Schepisi, che poi, sempre la nostra Alessandra Schepisi, ha raggiunto anche il ministro welfare Maurizio Sacconi. Porto a casa un invito che qualunque governo vorrebbe sentirsi fare, quello di continuare lungo la stessa strada per quanto riguarda il lavoro. Per la politica industriale Angeletti non ha chiesto piani di settore o sciocchezze di questo tipo, ha chiesto piuttosto che ci sia un governo delle trasformazioni, ed è quello che con i tanti tavoli stiamo facendo, insieme alla creazione di condizioni più favorevoli per attrarre investimenti dall'esterno e dall'interno. Se insieme ha dato l'invito migliore che un governo può sentirsi chiedere, quello di andare avanti sulla stessa strada, cioè con ammortizzatori sociali da un lato e con investimenti nelle competenze e nella formazione dall'altro. Il suo appello a un'alleanza riformista ci trova assolutamente sensibili, soprattutto quelli come me e come tanti che nel Popolo della Libertà vengono dalla stessa scuola riformista. E su questo, sempre con la nostra Alessandra Schepisi, è intervenuta anche la presidente di Confindustria Macigaglia. Siamo d'accordo, pensiamo che in questo momento sia la cosa da fare, imprese e lavoro sono insieme in questa grande sfida di uscire dalla crisi e tornare a crescere, quindi siamo pronti a collaborare, l'abbiamo già fatto sulla riforma degli assetti contrattuali, siamo interessati a lavorare sulla riforma fiscale che deve riguardare lavoratori e imprese, e questo è altrettanto importante. E siamo d'accordo sul tema, appunto, che bisogna trovare nuovi driver di crescita. Innovazione, ricerca, tecnologia, capitale umano sono le vere parole d'ordine che devono essere alla base di questa ripresa. E poi il fisco, così ci colleghiamo anche all'ultimo tema di questa puntata di Focus Economia, ultima notizia, diciamo, di questa giornata economico-finanziaria. Il leader della UIL Angeletti ha detto: occorre mettere mano a una riforma fiscale, il sistema italiano è pessimo, incoraggia l'evasione, è iniquo e inefficace. La riforma del fisco è assolutamente necessaria in un paese nel quale la ricchezza attraverso il fisco non si distribuisce non solo in maniera uguale ma neanche in maniera efficiente. Noi pensiamo che già nel 2010 si possa cominciare a progettare un nuovo modello fiscale. All'obiezione che viene fatta che non ci sarebbero i soldi, le risorse per farla, noi invece vogliamo proporre che questi soldi si possono trovare sia nella necessaria lotta all'evasione fiscale, sia nel trasferimento di una parte del carico fiscale alla compravendita di azioni, a quello che si chiama trading finanziario e anche all'aumento dell'IVA su alcuni beni di lusso. Ed è di ieri la notizia, ricordo, dato Istat sul 2009, che la pressione fiscale anche nel 2009 è cresciuta, è arrivata al 43,2% del PIL dal 42,9% in cui si trovava nel 2008. Di fisco, domani interverrà al congresso della UIL il ministro Tremonti, quindi immagino che toccherà anche questo tema, però di fisco parliamo in conclusione, perché oggi l'Agenzia delle Entrate ha diffuso dei dati positivi. Li ha diffusi il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che ha spiegato come mai si sia ottenuto un risultato buono. Ripeto, ogni tanto fa piacere chiudere con buone notizie. La lotta all'evasione, che resta enorme in Italia, resta almeno al doppio stimato rispetto al resto d'Europa, ma comunque ha portato incassi per 9 miliardi e 100 milioni di euro, il 32% in più rispetto al 2008, che era già stato un anno da record. 712.000 controlli nel 2009, il 10% in più. I risultati sono stati ottenuti, ha detto Befera, grazie all'impegno, poche le mele marce. Sentiamolo allora al microfono della nostra Chiara Di Michele. Quest'anno abbiamo incassato oltre 9 miliardi, già nel 2008 avevamo avuto un record con 7 miliardi, quindi pensare che in due anni abbiamo incassato 16 miliardi credo che sia un risultato estremamente positivo, che dimostra che in Italia si cominciano a scovare gli evasori e forse non è più tanto furbo evadere. Noi abbiamo fatto una strategia diversificata per settore economico, ma anche per tipologie contribuenti, quindi grandi imprese, medie e piccole imprese, persone fisiche, lavoratori autonomi e così via. E qui si è un po' diffusa un po' dappertutto l'evasione, questo lo sappiamo, la grande piaga italiana. Diversificando le strategie riusciamo a colpire meglio e credo che i risultati ci stiano dando ragione. Stiamo combattendo molto le compensazioni indebite, le frodi, l'evasione internazionale, lo sapete perfettamente, i nuovi strumenti molto forti che abbiamo avuto dal Parlamento e dal Governo sull'evasione internazionale. Queste sono le nostre punte di diamante, ma poi lavoriamo, come dicevo prima, a tutto campo con strategie diversificate. Così appunto Attilio Befera. Però per fronteggiare anche l'evasione causata da un eccesso di burocrazia, sempre il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate ha indicato anche la strada. La strada, l'abbiamo detto più volte, si chiama sostanzialmente semplificazione. Semplificare, semplificare, semplificare. È la cosa più importante di tutti. Una parte della semplificazione la possiamo fare noi attraverso la revisione della modulistica, la semplificazione delle comunicazioni, eccetera. Una parte va vista in ambito normativo e noi faremo tutte le proposte necessarie. E poi un tema di attualità, visto che anche oggi Silvio Scaglia ha escluso ogni responsabilità dalla vicenda Fastweb e Telecom Sparkle, dice non aver mai conosciuto Mockbell, ma insomma questo ormai è una vicenda di carattere più giudiziario. Il danno stimato di 2 miliardi e 4, come giudicato affari, 380 milioni di IVA evasa dalla triangolazione che passa sotto il divertente nome di Carosello. E Befera un riferimento l'ha fatto anche ai casi degli ultimi giorni, sentiamo. Esiste già da un anno una cabina di regia che vede coinvolte Agenzia delle Entrate, Agenzia Dogana e Guardia di Finanza per svolgere insieme indagini e mettere a punto strategie di lotta alle frodi fiscali. Le frodi fiscali sono frodi internazionali spesso, anzi quasi sempre, è una piaga che attraversa tutta l'Europa, stiamo anche lavorando in stretta connessione con gli altri paesi europei perché questo fenomeno venga perlomeno messo sotto controllo. E poi però dai sindacati non c'è stata solo la posizione, insomma, così propositiva di Angeletti. La CISL infatti, per voce del suo numero uno Raffaele Bonanni, chiaramente quando c'è l'assemblea annuale, il congresso annuale di un sindacato, partecipano anche, vengono invitati anche gli altri sindacati, ha detto attenzione, l'ha detto sempre la nostra Alessandra Schepisi, o qui si va verso una riforma fiscale o stiamo pensando anche a una clamorosa mobilitazione. È bene che lo faccia anche la UIL e poi dopo la campagna elettorale regionale chiediamo al governo, lo chiediamo insieme, di incontrarsi subito con noi per dare un segno chiaro. O si riforma interamente il sistema fiscale o altrimenti ci mobiliteremo anche con iniziative clamorose. Staremo a vedere, volete l'ultimo dato dell'America, ve lo diamo e poi chiudiamo questa puntata di Focus Economia. L'America guadagna lo 0,24%, ha un po' annullato i rialzi, ripeto, tutte le altre borse hanno chiuso con un punto percentuale di rialzo, tranne Milano che ha guadagnato mezzo punto percentuale. Da Sebastiano Berisoni veramente tutto, vi lascio al resto della nostra programmazione, ci sentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Per ora, buona serata. Radio 24, la passione si sente.